figlio del demonio. Scrivo paroliere stramonio, le mie righe sono vendetta sul mondo che senza di me è stato in festa, sui figli di puttana che ho incontrato, che ogni volta che facevo un passo poi mi hanno schiacciato, ogni mano che ha stretto mi hanno strizzato, e questa volta che mi hanno strizzato voglio stritolare chi mi ha strizzato. Dentro un guanto ci metto il mondo sul cazzo, così quando gli vengo dentro non devo pagargli il figlio che viene al mondo. Questo stritolo è il boa, stritolo la tua goa, la tua gola è tipo infamia che spara e violenza di ignoranza, di nulla tenenza del mio orgoglio. Sto andando sempre più a fondo, finirò sempre un ponte, se finirò la mia musica non ne avrò più bisogno. Con una pera al braccio finirò sotto un ponte come uno straccio, se non avrò niente da dire queste cose non potranno più ripulire la mia metrica, che vorrà dire, che cosa vorrà dire questa canzone senza di te? Un croissant senza il cappuccino al caffè, la mattina senza mia madre, senza mio padre, senza le pare, senza quelle volte che vorrevo solo infilarmi una canna nel braccio, anzi una pera nella canna, anzi un fiore nel sole, anzi quando volevo volere, volevo volere, volevo volare lo sole, volevo soltanto sapere quante volte sarei rimasto senza mestiere, il pittore, volevo fare il pittore, dipingere il mondo come volevo, come segnava pure Gue sopra una canzone che faceva come se ce la facevo lei o che ce la facevo senza cash, e invece sono rimasto solo a guardare questo mondo che senza di me sapeva volare, e ora che va tutto a fondo anch'io dentro questo cash. Senza flow non so più parlare, senza flow non so più volare, senza te sopra le mie gambe mi sciaverò la mano di un altare. Fatti da parte che non so recitare, sono un monster, mica un chiaver. Sono sopra una penna che danzo sopra la ida, riina dentro una stanza faida, contro di te frate, non puoi recitare una parte, questa cosa è fatta ad arte, arte. Con il mio rap avrò 1000 euro da dare da mangiare al mio gatto, anzi avrò te da dare da mangiare al mio gatto. Frate, questa musica non è più il rap, è un ricatto contro l'umanità che mi ha lasciato il patto col demonio senza dare il cash, mi ha lasciato con 20 mani a scrittore tipo Ganesh. Vorrei pure uccidere te anche se ti piace questo silenzio. Togliere il leg, smettere la 90 come fossi manco Puff Daddy al Wild Party. Se mi dedico ai miei negri non devi pure dire più nulla, basta barilla, anzi urla, questa roba è lo stramonio del demonio. Io sono corrotto, se mi paghi il cibo per il gatto e il tuo biscotto lo impuccio dentro il sangue di Elvis, faccio tintiri il tancio i tuoi capelli, ti schiaffeggio due gemelle contro due gemelli, faccio un'orgia con 20 fratelli. Thank you. cancellare una notte. Ma il giudice gli dà le botte al bimbo rotten. Sono Falcone, anzi un falco, anzi sono contro la tua macchina, il tuo pedone. Vola, vola, Don Chisciotte, vola, vola che ti do spranghe con il freestyle tutta la notte. Sprangate in bocca a ste mignotte di rapper. Faccio sotto tipo sushi sotto le mie palle giganti. Siete tutti qua, siete tutti applausi di cantanti corrotti da tangenti. Citate me, citate come i dementi. State lentamente sotto i miei QI, lentamente sotto i miei QI di freestyle in flow, freestyle siete dementi. Vi schiaffeggio finché non rimanete manchevolmenti sui divani a aerosol a stenti. Drillo una rima Casper, sono il demonio fatti da parte. Le vedi quelle due puttane asiatiche americane, giapponesi ninja, fristo sopra una negra, gli sborro in bocca, dice minchia. Odio gli ebrei, no, anzi li amo per i soldi. Almeno sono onesto, John Gotti. Passo davanti una pattuglia a lingotti. Vibra l'anima mia, vibra tipo sul tuo corpo con un bisturi autopsia generale delle ombre, le tenebre fanno cric croc con le ossa di Pacciani smorto sotto le mie ossa. Io sono risorto più Pacciani di Pacciani di Paccianismo, nuovo paccianismo. Ti tolgo la tipa, me la mangio. Anzi sono di Roberto Baggio un ostaggio, la sua pace del mondo. Io ci faccio piscia sopra un oltraggio. Pace della pace, io sono pace della pace, della pace di sta pace di sto cazzo. Perché se non metti sto cazzo in pace ti urlo addosso come un pazzo. E parlano tanto di pace nel mondo, poi chi governa c'ha i preserva nel cervello che non gli va più in canna. E quindi fanno guerra contro l'Irlanda, l'Islanda, la Giamaica, perché da fumare pure a te che c'è il potere, così ti scopri due squattrine al giorno e non rompi più i coglioni. Tu ce l'hai soltanto nel nome. Io sono talmente figo che ti schiaccio come una screggia sotto il piede sinistro di Roberto Baggio. Tu non sai neanche il nome. A calcio sono un campione, ti faccio a pezzi e tu sei, rimarrai per sempre solo un'opinione tra i più persi. Io sono Gilleschi, mandarti in crisi, unbelievable. Pare che i vermi trottolano da soli, trottolano tarantelle del demonio, trame di Satan. Trame di Satan, sì sì sì sono risorto, damma bianca dammela nel vento. Il bambino di Satan parla, nel mio cervello. Oh my darling, ridammi la carriera, no, dammi due dadi che tiro assassini sugli assassini di questi fratelli mancati agli appelli del rap. Hanno assassinato il rap italiano. Come on straight with me. Vorrei darvi la forza di reggere ogni volta, di togliervi dalla bocca questa troia stravolta. Oh my darling, tu parli come lei, ma sei il demonio dei miei tardi. Stravolti bimbi, posseduti rimba, inviti che diventano miti. C'ho il quoziente intellettivo di presbite, Einstein brain, I'm fucking, I feel the fame. Sky TV, I wreck my pain. Oh my darling, tu al massimo ti fai due clementine. Io mi faccio un basco di diamanti su ste bambine che mi manda il demonio per dirmi che quando ero a scuola ero innamorato di lei. E lei mi metteva sempre in mezzo a di lei. Lei era la più bella presa a mira da tutta la scuola. Lei che per lei han fatto zimbella la mia anima. Adesso han quotato loro più di quanto valevano. Erano tipo Mimmo Raiola, il loro coach. Il mio era quello di Southpaw, quindi De Niro. Cause me and the music are natural genius. Col massimo sei un artificio del destino. Studiato a tavolino, hai avuto più possibilità te nel pannolino. Cagati in mano, sei solo più famoso. Io vado contro il mondo, against the world in contromano. Tupac in una comunità psichiatrica, Alda Merini che ti uccide socratica. Su questa traccia uccido MC. Allergico al tuo M.E.C. Anzi era cos ama Eminem, non M.E.C. Il tuo nome fa chic, no, fa bitch. E.C. ogni volta che dici C te le stesse scopate tutti con BCCCC. Non sei meglio di me, non sei mai stato un re. Sta città l'ho in mano come Pelé, il Boca come Maradona. Sono talmente sopra che tu sei soca, tipo una foca che batte le mani. Io sono tipo aeroplani. Squaio la Swords, come in Silent Hill ti vengo incontro. porto la mia piramide, i ratti che compaiono. Io sono verso da corrotto. Io sono Damien il mai nato, rinato da una famiglia che mi ha stipulato un patto col demonio. Metto la maschera del demonio per il successo, ti cavo quel sorriso di cesso, ti metto dentro una statua a un gesso e ti vendo, ti spedisco in Australia. Aia. Pagheranno ogni mia lacrima nel vento. Io sono psycho in un dramma aico, in cui io ti riconosco, ti rinculo. Tipo il demonio controbalzo, stramonio, paroliere del gemello del destino. Sono Al Pacino con in mano un quarto di vino. Bevo sotto i portici, mica sotto i ponti. Non vado a farti il culo a tue mogli per vincere. Tu fai Juden, I fai bla bla bla. Oplai giù dagli scalini. Fantasma dell'amico che m'ha ucciso. Ogni lacrima di fratello, fratello coltello, sei uno zimbello. Davanti al mio re, il tuo, il mio più bello. Ti massacrerò davanti a un microfono se era bello prendermi per il culo. C'ho il cazzo più duro del tuo. C'ho una calibro 48, anzi una magno pronta per te nel mio bagno. E mi sparo, io sono Kurt Cobain, diretto su Purple Rain. Faccio questa vein, una South Pole come in South Pole. Sono pronto all'incontro, venitemi tutti addosso. Uno alla volta io vi stenderò col mio flow, mazzate tipo il demonio. E se non ti faccio fuori a parole, son pronto a prenderti a testate, quindi distanza signore. Prenditi i tuoi cashmere eleganti che mi metterai, perché ti ho rubato anche quelli. Vedrai tutti i soldi che hai nelle tasche, ora sono i miei. Con tua madre, tuo padre, tua figlia, così vediamo se era una questione di famiglia. Come è fottuto il mio destino, questa città mi ha combattuto fino a mortificarmi e non mi è piaciuto. Mi fotto tua madre, mi fotto tua figlia, mi fotto la festa, pure pasta Barilla. Gira in testa un pensiero malato, quello di entrare in casa di pezzi di merda e squartarli. Sono Jack, lo squartatore, vendevo uva alle signore. Faccio pezzi di merda che pezzi di squalo, mi mangio pure la squalo balena e il demonio. Church. In the church I was dying, I resurrected with my prying. The drama in the church. E tu sei giù e dici che sei su, e ancora che dici che sei su e invece sei giù. Rialzatemi la mia testa che è troppo giù. Devi andare fino a Genius. Genius is working and sometimes as I'm speaking and the right time of singing and hip hop feeling and dramatic, hypnotic, my speech is in your eyes, it was an hypnotic. I'll let you see my glory, I'll let you see my proud. Il mio dramma è forense sopra il tuo cadavere. Voglio esaminare la scena come un dottore. Passi un bisturi, signore, che boffo come Jack lo squartatore. Ti credi in avanzo di un demonio, demonio, demonio, demonio, demonio, demonio, demonio, demonio. Il demonio ogni volta mi danza intorno. Dice che è un altro, ma io so che è ancora lui. Mette alla prova i ricordi che non ci sono poi, perché questi giorni miei si sono fatti bui. Vivo come fosse un dramma, e poi questi drammi si sono fatti un po' bui. Attenzione a ai tuoi boy, li troverai decapitati dei tuoi mattatoi. E sono il matador e sopra rimasto in incanto. Dramma intanto, la favela che ha pianto. E sono pronti tutti con i Kalashnikov. I miei giorni si sono fatti bui. Danno una mano a spararmi, ritorno alle armi, le armi di un giovane buttate a terra dai vecchi, di una società, gli opportunisti, opportuniste, opportunismi. E giravo con i raga e non ce ne fregava, prima dei contratti, prima delle mogli, dei misfatti, e non ce ne fregava una lacrima Niagara al vento. Come Pacciani ti spacco la testa, ti apro quella macchina bestia. Aspetti di scoparti mia moglie, perché sennò ti faranno festa. Gli altri Pacciani a bestia ti cercheranno e ti faranno festa. Sono il mostro dei mostri, Carletto e Corrotti. Li vogliamo più morti, dei morti. Ci hanno lasciato soli, ma risorti. Ecco perché il mio piede solca la linea tra il non vedere e il vedere tutto, e vi metto a sedere. Vi metto a pensare ai drammi di un signore rimasto da solo in sole ore, mentre dall'altra parte del globo c'è qualcuno che so che ama il mio nome più del suo nome. Eppure in questa vita io ho il flow, io sparirò dopo questo flow. Come un buddista che shock shock intinge la sua glock glock nel sangue, mi sparerò bam bam, bam bam, bam bam. Il mio flow, il mio shock, il mio rock, il mio flow, il mio show. Non sono nient'altro che un fallito, ma di successo una rockstar, un gesso. Shock, shock. E sparirò, sparirò dentro un Monet, mentre al mondo il quadro più bello sei te, il mio in fondo è soltanto un Monet fatto per bene, dentro a una crew di visionari insieme. Non ce la fanno i miei fra, e ce la faccio io stavolta. Mi piaceva mangiare al McDonald's, i pulcini morti sotto una gogna. Ti farò vomitare il McDonald's, i pulcini travolti da una ruota, schiacciati e triturati dentro una carne viscida di vermi macellati. Avanzo di un verme per terra di tutta quella macelleria, ti è arrivato in bocca mentre mangiavi al McDonald's. Oh. Sei ancora che ti chiedi se sono dalla parte del global o del no global, tradizione e non moda. Due traditional wings, io sono per la famiglia, mica per il libertine. Anche se mi è piaciuto il film Liberty, l'ho fatto perché non c'era altro da fare che non farmi due troie. Non c'è marito che non sia mai andato a troie. Parlo chiaro così non ti faccio lo spelling, te lo urlo dentro come un lupo che fa ai tempi bui. Ricordati quando mi vedi che sono tempi bui. Flauti nella nebbia del Baghdad, la mia Italia è Baghdad. Io sono la Mecca, io sono Allah, Inshallah, Amen. Io sono il Messia, porto vendetta a tutti quelli rimasti con cicatrici negli occhi. E sia miracolo, rivedi fratello. ci hanno tolto tutto, lasciati uno zimbello. Inshallah, amen. Sono un uomo potente, quindi stai attento. Dove cammino crescono i fiori tipo Jesus. Noi col talento vi ricorderò tutto ciò che tengo e non tengo. Mentre vado avanti, porto avanti tutti quanti. Ci hanno lasciato in lavori anonimi coi guanti da dottore. Mentre torniamo a casa con la nostra personale, fai da te, do it yourself, passione. Dario Argento, farò un film. Tempi bui, Dario Argento, con cavie umane, stai attento. Il mio sogno era fare cinema, una pellicola noir, criminal. Vesto looper in strada, esco ogni giorno, mi ammazzano. Psycho killer in testa, nella mia testa danza il demonio. Stramonio di paroliere, back of creating you. Se non sai fare questo, non sei mio figlio. Io sono Dante, tu Virgilio. Virgilio, indicami il passaggio verso là, verso il paradiso, verso il Valhalla, verso l'Eden. Demonio. Fine della storia, filastrocca di gloria. Tanti nemici, tanta gloria. Io sono la vanità, sono la boria, l'angelo nero caduto, il posseduto, il guerriero vissuto. 40 anni di pace interiore taciuto, e feel this flow for us so long, long. È nato il rap in bocca tipo il demonio. Sto cazzo in gola, troia, soca, e vaffanculo te la tua sola. Hanno spaccato la testa tipo 50, si è sparato con un mitragliatore da un 50, then sono la sindrome di De Niro dentro una sindrome di Stoccolda, mi rapiscono, io divento il caposetta. Letta, questa frase devi dirla al contrario, etta, le M7, retta, la mia retta è tipo al contrario da l'infinito torna a me. Io sono il demonio, con le parole faccio quello che voglio, le mandibule e faccio pezzi così piccoli che gli stacco due braccia e li faccio scrivere coi mignoli. I vasi lo strangolo per terra e gli vengo in bocca alla troia di sua moglie. Nuova rap god, dentro un god, io sono il god. Vomito monster, vomito come un monster. Giostra, zingara, dimmi. Zingara, dimmi. Zingara, dimmi se il mio nome diventerà famoso. Zingara, dimmi. Dammi le idee di un portentoso. Portento a fuoco, fammi un pompino. Zingara, dimmi. Dammi più di quanto daresti ai canti celesti. Zingara, dimmi. Quella notte psicopsichiatrica, il sangue ovunque, Lady Macbeth chiavica, chiavata lavica, peperoni di psicofarmaci, mixer, botte, bombe, giù 90 legato a tromba, to giù a 90 adesso chi ti tromba, sono io che saltello sulla tua tomba. Dammi ancora una volta quella roba che quando mi sleghi ti mangio per intero. Dammi ancora una volta quella roba che quando mi slego ti lancio per intero contro il muro e ti taglio la gola, mister nessuno. Mi bevo il tuo sangue e divento mister nessuno. Dammi ancora una volta quel cocktail che quando mi slego mi mangio qualcuno, uno psichiatra che sono a digiuno. Lady Psycho, I'm a killer. In my brain I'm a killer. Suonate in questo questo rap game non si possono sputare. Eravamo sopra un treno verso il tuo altare. Sindrome di Monza. Mi hanno richiuso un violino nero nella testa, osa. Cosa? Mi han tolto le parole da la sposa. Sposa mia con Luciferina grida. Dall'infinito giungi a me. Interrascia l'antifada. Questa vita è nada senza pace. Se non c'è rap non c'è pace qua giù, olè. Contro il gesto di bulle e basi perché involontariamente in un gesto incosciente repellente, repellenti rettili contro la mia mente, versi di un onnisciente che vede dentro al suo rogo lo stesso dito puntato che aveva Inquisizione contro le streghe. Io stregone mi vesto da stregone, vesto diamanti, twilight, un faro nella notte della tenebra dell'indice che ha puntato ancora il dito. Annega il mio cuore in un violino nero, signore, la mia mente che varia e vibra e vibra e viva al sole ore. Clandestino mio, violino nero, suona il cor nella tenebra. Suona il cor nella tenebra. Il mio violino suona il cor nella tenebra. Tempi bui e tenebra. Gioco come un bambino matto in psichiatria, con due dadi la mia follia. Un bambino morto in psichiatria, due dadi nelle mani, fantasma la sua follia. E cercava di giocare a quel Jumanji che non si è mai permesso, perché il capitale che non aveva in tasca ce l'aveva nella fantasia. E la psichiatria si è portato un altro bambino via, che non aveva capitale nelle tasche ma nella fantasia. Stay with me babies. Oh oh, in a mic go crazy. Try to open the unreal world. Not in the money but in the flesh. Ho superato tutti sti stronzi con la fantasia. Chiamatemi pure Mister Fantasia. La psichiatria si è portato un altro bambino a real via. Violino unreal nella tenebra della notte dell'anima. Uno Stradivari suona una danza macabra sulla testa dello psycho psichiatrica. La mia sindrome è quella di Mozart, prendi appunti Posar. Sono un potente dalla parte di chi non ha niente. Falcone tra la gente, Borsellino, Sgarbi, Silvio e Andreotti, Metarli. Amarli non lo so perché non so chi cazzo. La mia mente si dimentica tutto come un pazzo. Cito, psycho, cito, mago, male. Cito, unreal come fosse la questione delle tasche. Che avrei io da padre, quindi t'ammazzerei sopra la tua testa con le mie words, words, big words, come un arsenale, unreal, words, words, big words. Every time I choose the mic, I fight for imagine.